dell'Alleanza Nazionale che pensa, ma pensa molto meno di quanto non pensasse il vecchio movimento sociale, è divisa in due categorie. Una categoria, parlo dei politici e dei quadri, non parlo di chi vota Alleanza Nazionale. E oggi chi vota Alleanza Nazionale è sempre più connotato come un cittadino di un ceto medio che ha paura di proletarizzarsi e che invece si va proletarizzando e che naturalmente non capisce cosa gli sta succedendo intorno e fa come il cane che viene bastonato invece di mordere chi lo bastona, morde il bastone, insomma, cioè ci sta arrivando addosso la crisi di chi è la colpa, ovviamente dei musulmani, dei rumeni, del disordine, della crisi della famiglia, cioè di cose che sono o molto generiche o degli obiettivi che sono addirittura degli schermi praticamente. Questo è l'elettore, l'elettorato attivo di Alleanza Nazionale. Per quanto riguarda i quadri e i dirigenti si stanno salvando l'anima, si stanno salvando le loro poltrone, i loro sgabelli, i loro scapuntini e credono, e qui io non so se loro hanno ragione o non hanno torto, credono di potersi immaginare un domani in cui il Popolo della Libertà sia sberlusconizzato, e io ho l'impressione che lì stanno facendo l'errore della colomba di Kant. Kant diceva: la colomba vola nell'aria, l'aria oppone resistenza, la colomba fa fatica a volare, e allora pensa come sarebbe bello se non ci fosse l'aria. E la colomba, poverina, però non sa che se non ci fosse l'aria, non solo lei non potrebbe volare perché è l'aria che la sostiene nel vuoto, ma addirittura morirebbe per mancanza d'aria. Ecco, io credo che i dirigenti e i quadri, non tutti naturalmente, certamente non Fini, i dirigenti e i quadri di Alleanza Nazionale facciano l'errore di sperare un po' o di essere convinti di riuscire a creare un effetto simile a quello che sperava la colomba di Kant, cioè sopravvivere con un grande concentramento popolare berlusconiano al ritirarsi di Berlusconi, ritirarsi per motivi fisiologici, perché è stanco, perché gli viene una malattia, perché non ne può più, perché non ha più voglia, perché si vuol godere gli anni che gli restano, gliene auguro mille, alle Bahamas, perché lo mettono finalmente in galera, tutto quello che si vuole. Però il giorno che Berlusconi si libera, loro hanno fatto questo calcolo: noi siamo ancora un partito di vecchio tipo, tutto sommato, un partito di tipo leninista, come si vuole, come se si vuole, come non ce ne sono più, salvo forse qualche gruppetto dell'estrema sinistra, eccetera. Noi siamo ancora un partito strutturato. Forza Italia è un'azienda e un coagulo di gente che bada al suo interesse. Finito che sia, per qualunque motivo, l'era Berlusconi, noi, i nostri quadri, potremo inquadrare il